e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, oggi sono da sola, per cui mi raccomando, fatemi compagnia a voi. In questa primavera che vede Cuore e Denari riprendere i suoi spostamenti in lungo e in largo, vi ricordo che questa settimana intanto saremo anche noi a Trento al Festival dell'Economia, ci saremo venerdì 3 giugno, mentre molti di voi saranno già in giro per il ponte. Poi continueremo a viaggiare, il venerdì successivo saremo a Torino al Salone dell'Automobile che parte l'8 giugno al Parco Valentino, lì saranno esposte, pensate, 25 anteprime nazionali di 44 case automobilistiche. Noi oggi, peraltro, perché vi anticipo anche questa nostra trasferta, perché guarderemo alle auto di tutti i giorni, quelle con cui ci spostiamo per i nostri viaggi e le nostre vacanze, e ci spostiamo sempre con prudenza, mi auguro, con l'attenzione alla nostra salute che possiamo preservare doppiamente rinunciando ad esempio a rispondere al telefono quando guidiamo, e poi naturalmente rinunciando magari anche a fumare in auto e non. Questi sono solo alcuni dei temi di Cuore e Denari di oggi, che iniziamo come sempre con la nostra rassegna stampa. Iniziamo oggi dalle notizie di Cuore. Questa Olimpiade sa da fare, a dirlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato che non c'è alcuna giustificazione di salute pubblica per cancellare, riallocare o rinviare i giochi di Rio. Questa è stata la risposta alla lettera scritta qualche giorno fa da 100 scienziati che invece ribadivano la necessità di rinviare o addirittura cancellare le Olimpiadi. Il modo migliore per ridurre il rischio di contagio è comunque seguire consigli di viaggio forniti dalla sanità pubblica, come ad esempio utilizzare repellenti adatti, indossare abiti preferibilmente chiari che ricoprano buona parte del corpo e scegliere dove possibile alloggi con aria condizionata per tenere chiuse porte e finestre il più possibile ed evitare zone sovraffollate, senza acqua e scarsa igiene. Per la serie Quello che le donne non dicono, secondo gli studi di un gruppo di ricercatori inglesi, per troppo tempo i dolori mestruali sono stati in qualche modo sottovalutati, spesso incolpando le donne di esagerare troppo con le loro lamentele o comunque di ingigantire il problema in modo poco credibile. Non è così, infatti, secondo questo lavoro i dolori mestruali in alcuni casi sono molto simili addirittura ad un infarto. Per spegnere il dolore, oltre ai farmaci, Cuore e Denari suggerisce che si possono provare rimedi fitoterapici come l'angelica cinese o l'agnocasto. L'elisir di lunga vita, pensare positivo. Secondo una recente ricerca svedese, un carattere tendenzialmente ottimista andrebbe di pari passo ad una vita più sana e duratura. I risultati dello studio hanno evidenziato come le persone più anziane, ma che si dimostrano più positive, risultavano più sane, più autonome e meno dipendenti dai medicinali. Questa ricerca ha evidenziato come il benessere a livello psicosociale sia un fattore fondamentale per vivere una vita piena, più appagante e naturalmente sana. Andiamo alle notizie di economia e finanza, ne abbiamo tante. Oggi nella nostra rassegna stampa la borsa adesso è leggermente negativa, in Europa perdono lo 0,2%, Parigi, Francoforte, Londra è sulla parità, Milano meno 0,11%, abbiamo in rialzo stamattina CNH Industrial più 1,43%, A2A più 1,25%, Generali più 0,7%, recupera circa mezzo punto Leonardo Finmeccanica, mentre il segno meno prevale sul Banco Popolare meno 1,7%, UbiBanca meno 1,62%. Dopo un vertice fiume nella notte del Consiglio di amministrazione di Veneto Banca, è stata fissata la forchetta di prezzo delle azioni per l'aumento di capitale in vista della quotazione in borsa. E ci sono, in realtà non è una sorpresa, ma è comunque sempre una gran brutta notizia, ci sono brutte notizie per gli 87.502 soci della banca. Un copione gialletto anche per la Popolare di Vicenza. Praticamente questi soci di Veneto Banca, quindi anche clienti, imprenditori, famiglie del territorio, hanno visto le proprie azioni pagate fino a 40,75 euro precipitare ad un valore di pochi centesimi. Azionisti che avevano in mano 5 miliardi di euro e che adesso si trovano con poco più di niente. Sono stati colpiti appunto per tutte queste migliaia di persone risparmi di una vita di lavoro, patrimoni familiari. Si calcola che per l'88% si tratti di persone fisiche con un'età media di circa 60 anni, il resto sono aziende. Sarà interessante vedere, anche se in realtà ormai Le anticipazioni sono già state diffuse dalle agenzie di stampa. Cosa dirà su questi temi il governatore della Banca d'Italia Visco, che in questo momento sta iniziando a parlare appunto per le considerazioni finali della Banca d'Italia. Praticamente poco fa Visco ha auspicato una ripresa delle iniziative di aggregazioni bancaria in Italia. Le banche italiane attuino aggregazioni secondo logiche strettamente industriali, ha visto, ma industriali appunto, secondo logiche strettamente industriali, ha detto Visco. Noi tra l'altro di questo argomento torneremo a parlare giovedì nella nostra rubrica Investire Informati, per rifare l'ennesimo punto su le banche italiane, con un focus naturalmente su Veneto Banca. Oggi dedichiamo una bella parte di Cuore Denari al tema dei viaggi e dei trasporti. Siamo andati quindi a caccia di notizie che riguardino l'argomento. Abbiamo uno sciopero in vista di 4 ore domenica 5 e lunedì 6 giugno per tutti gli addetti delle autostrade. Lo hanno proclamato unitariamente i sindacati di categoria a seguito dello stato di agitazione indetto il 23 maggio per il mancato rinnovo del contratto nazionale autostrade e trafori. Questa è una notizia di Cuore Denari, naturalmente, molto cuore anche all'interno di questa campagna su web, social, network e radio per la sicurezza stradale promossa da ANAS in collaborazione con Polizia di Stato sui pericoli che si corrono quando ci si distrae al volante. La campagna si chiama "Se non rispondi non muore nessuno, quando guidi guida e basta". La distrazione alla guida costituisce una delle principali cause di incidente stradale. In base ai dati Istat, nel 2014 ci sono stati circa 37.000 incidenti imputabili alla distrazione, circa il 17% degli incidenti stradali con feriti, ma elevatissima è anche la mortalità. Brutte sorprese per i passeggeri che viaggiano su voli low cost, lo segnala lo sportello dei diritti. Dopo il bagaglio a bordo, uno solo, non di più e che non sfori le misure, oppure fanno 65 euro, ecco le penalizzazioni per chi arriva in ritardo all'imbarco, chi non si presenterà ai controlli di sicurezza almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza di un aereo EasyJet rimarrà a terra a meno di sborsare 80 sterline, circa 105 euro, e solo per poter tornare al desk e cambiare il proprio volo con quello successivo. Addio dunque all'opportunità di arrivare all'ultimo minuto, concessa fino all'altro giorno almeno a quanti non portassero con sé bagagli da stiva. Ma come sa bene chi viaggia spesso con le low cost, c'è un prezzo per tutto, e anche per questo al momento della prenotazione sarà offerta dalla compagnia una copertura assicurativa di circa 7 sterline 50. I costi di un eventuale ritardo saranno rimborsati sottoscrivendo questa copertura assicurativa. Insomma, ci si può assicurare anche sul rischio di arrivare in ritardo all'imbarco. Oggi 31 maggio non ci sono solo le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, ma è soprattutto la giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indetto a partire dal 1988 con lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, con la speranza di invitarli poi a smettere di fumare in via definitiva. Quest'anno il World No Tobacco Day è dedicato alle regole sulla nuova veste che i pacchetti di sigarette dovranno avere per ridurre il loro appeal, specialmente sui più giovani. Ci piacerebbe conoscere la vostra opinione su questo argomento. Scriveteci, se volete, al 349-238-6666, riceviamo i vostri sms ma anche i vostri messaggi su WhatsApp. Siamo anche naturalmente ben disposti a raccogliere i vostri commenti in diretta all'800 24 00 24. Se voi foste il ministro della salute o se vi fosse data la possibilità di scegliere il tema della giornata, quale scegliereste? Avanti con le proposte, con le vostre storie, con quelle dei vostri figli. Perché peraltro ci riferiamo ai vostri figli? Perché è un target difficile quello dei ragazzini. Quando si mettono in testa una cosa, convincerli a cambiare idea è sempre un'impresa, ma a fare breccia potrebbero essere i dati di due ricerche molto interessanti e che faranno discutere. Allora, la prima ricerca riguarda l'impatto del fumo passivo. Ormai è noto quanto chi fuma danneggi la salute di chi gli sta accanto. chi fuma avvelena anche te, digli di smettere. Ve la ricordate questa campagna? Andò in onda sulle reti pubbliche tanti anni fa, venne realizzata, è una campagna no profit peraltro, realizzata fra il 1975 e il 76, quindi 40 anni fa, dall'associazione Pubblicità Progresso, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi ai quali vanno incontro i non fumatori quando entrano a contatto col fumo, in un tempo in cui la legge sul divieto di fumare nei locali pubblici non era ancora stata approvata. Il problema è che il rischio che si corre anche all'aperto, e quindi non basta andare a fumare fuori per inquinare di meno. Allora, su questo punto sentiamo che cosa ci racconta un amico di Cuore e Denari, che è il dottor Roberto Boffi, che su European Respiratory Journal ha pubblicato una ricerca in cui ha misurato il contributo dell'SHS, del fumo passivo, sull'inquinamento ambientale outdoor, confrontandolo con quello da traffico veicolare. Sentiamolo. Buongiorno Deborah e buongiorno ai radioascoltatori di Cuore Denari. Anche quest'anno si svolge la giornata mondiale senza tabacco, il cosiddetto War No Tobacco Day, che celebra ogni anno a fine maggio un evento di informazione e di sensibilizzazione sui danni del fumo. In particolare il target anche quest'anno sono i fumatori più giovani, in quanto il titolo della giornata del 2016 scelto dall'OMS è pronti per il confezionamento anonimo, quindi dei pacchetti di sigarette che abbiano meno appeal, meno presa, soprattutto sui fumatori adolescenti, in quanto dovrebbero, speriamo presto anche in Italia, sempre più contenere avvertenze, anche immagini, shock, e meno loghi che possano attrarre i fumatori da parte delle multinazionali del tabacco per il loro prodotto. All'Istituto dei Tumori da anni cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi sui danni anche del fumo passivo, per far capire quanto il fumo abbia una straordinaria capacità inquinante anche all'aperto, e quest'anno mostriamo due esperimenti veramente di grande impressività. Uno sul fumo nei centri storici, nei cosiddetti canyons urbani, nella zona della movida milanese, la zona Brera, confrontata con una via trafficata milanese lì vicino, via Pontaccio. Ebbene, abbiamo visto e pubblicato recentemente su una importante rivista europea, l'European Respiratory Journal, che in estate dalle 18 a mezzanotte c'è più inquinamento nella zona pedonale di via Fiorichiari, dove quindi ci sono un sacco di tavolini all'aperto, bar, ristoranti e fumatori che fanno il cosiddetto struscio dell'happy hour o della cena, rispetto alla zona invece piena, intasata dal traffico delle macchine. Quindi dimostriamo con questo studio che il problema del fumo passivo esiste anche all'aperto, e quindi dovrebbe essere secondo noi auspicabile un'attuazione di norme che tutelino i non fumatori dall'esposizione al fumo passivo anche in ambienti outdoor. Ora è estate, per cui ricordiamoci quanto abbiamo già sensibilizzato con i nostri esperimenti sul problema del fumo passivo nelle spiagge, dove basta essere a 5 metri da un fumatore per essere esposti a alti livelli di particolato fine. La stessa cosa negli stadi, recentemente c'è stata la partita di finale di Champions League a Milano, dove la FIFA ha proibito di fumare, oppure nei concerti all'aperto o nei parchi, dove tra l'altro ci sono molti bambini e donne incinte. Quindi speriamo che anche questo nostro esperimento sui centri storici possa andare in un ordine di una sensibilizzazione, perché no, magari anche di normativa della tutela delle persone più sensibili. E intanto molti ascoltatori si stanno candidando con le loro idee a così un po' esprimerci il loro pensiero su come la pensano, cosa bisognerebbe fare naturalmente per stroncare queste abitudini in molte persone. Il deterrente economico vedo che è di gran lunga il più gettonato, appunto, fra gli amici che ci stanno segnalando le loro proposte, sia all'800240024 che al 349-238-6666. Adesso abbiamo il traffico, poi ritorniamo con un altro contributo del dottor Boffi, ma anche con un ospite tra poco. Cuore e Denari. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Eccoci tornati insieme. Oggi alla giornata mondiale senza tabacco, del fumo, dell'importanza di smettere. Non ci stancheremo mai di parlare, perché sono ancora troppe le persone che fumano, che iniziano nonostante tutto a fumare, sono ancora troppe le persone che cercano di smettere e si trovano sole ad affrontare questa grande sfida. Nel nostro paese, pensate, il fumo è la prima causa di morte, 83.000 decessi ogni anno, quindi per questo ci sembra assolutamente importante continuare a ricordare che non è mai troppo tardi per smettere e per riprovare a farlo nonostante eventuali fallimenti, perché non è mai troppo tardi per dire addio alle bionde. Prima del traffico vi abbiamo fatto ascoltare un contributo del nostro amico di E Cuore e Denari, il dottor antifumo Roberto Boffi. Adesso abbiamo una ricerca che mette a confronto sigaretta e treno. Ci spiega i risultati appunto il dottor Boffi nel contributo che Nicoletta ha raccolto ieri, proprio perché in questo momento sono entrambi all'Istituto dei Tumori a presentare questa giornata mondiale. Sentiamo Boffi. Oggi è la giornata del confronto tra la sigaretta e il locomotore. Alzando sempre via via ogni anno all'Istituto Nazionale dei Tumori l'asticella del confronto, della capacità di liberare le famigerate polveri sottili da parte di una sigaretta e di un motore, quest'anno abbiamo voluto sfidare niente poco di meno che un locomotore diesel di 2000 cavalli. Questo grazie alla collaborazione con lo stabilimento Marcegaglia di Ravenna, con cui stiamo facendo da anni un intervento di sensibilizzazione, di supporto antifumo per i lavoratori di questa azienda. Ebbene, i risultati sono stati veramente incredibili, perché abbiamo verificato che in termini di PM10, cioè le polveri inferiori ai 10 micron di diametro, quelle più pericolose perché arrivano ai bronchi, ai polmoni e poi vanno anche nel torrente circolatorio, quindi al cuore, al cervello, in tutti gli organi, bastano solo 5 sigarette per inquinare come un treno. E quindi questo treno, questo locomotore merci che viene utilizzato all'interno dello stabilimento per trasportare l'acciaio, non può e non deve essere visto, in questo caso dai lavoratori della ditta, ma da tutti i cittadini, come un alibi per dire: beh, tanto allora è inutile non fumare, non cominciare a fumare nel caso dei ragazzi, o non smettere di fumare nel caso degli adulti, perché tanto ci sono i motori che inquinano molto di più. No, abbiamo visto che bastano incredibilmente solo 5 sigarette per inquinare come un locomotore diesel da 2000 cavalli. E prima di presentarvi il nostro prossimo ospite, sentirei invece Nicola da Latina, che ha raccolto il nostro invito a presentarci la propria personale campagna per combattere questa brutta abitudine che hanno ancora molti italiani. Nicola, buongiorno. Se fosse ministro della salute, che cosa farebbe per cercare di sensibilizzare? Bisogna essere, secondo me, un pochino più pratici. Vanno bene le campagne visive dove mostrano immagini scioccanti e quant'altro, però fondamentalmente poi alla fine la praticità è quella che vince sempre, a mio avviso. Uno dei deterrenti potrebbe essere quello di vendere le sigarette sfuse. Si usano le sigarette perché il pacchetto è comodo, perché si tengono dentro, visto la loro delicatezza nell'utilizzo. Io non sono un fumatore. Venderle sfuse potrebbe risultare a qualcuno scomodo da utilizzare e quindi poco usufruibili, poco utilizzabili. Questo potrebbe essere un altro tassello, insieme alle campagne che si fanno, affinché qualcuno decida di smettere perché non è più pratico utilizzarle, certo, o perché è scomodo, o perché si perdono, perché si rompono. E si rompono soprattutto. E sono soldi buttati in qualche maniera. Nicola, grazie per il suo contributo. Naturalmente, come dicevo prima, molti ci stanno invece riproponendo ancora una volta la questione economica. Andrea da Modena ci scrive: per indurre i fumatori a smettere, poniamo il prezzo di ogni pacchetto a 20 euro. Invece gli aumenti ce ne sono gradualmente, sono sempre di pochissimi centesimi. Sentiamo che cosa ne pensa di queste proposte il nostro ospite, il dottor Adriano Di Paco, medico pneumologo del Centro Svezzamento e Riabilitazione Respiratoria Auxilium Vitae di Volterra. Dottor Di Paco, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a lei e a tutti i vostri radioascoltatori. Ha sentito appunto i nostri amici come la pensano, si sono già inventati delle strategie di marketing per cercare di convincere magari i propri vicini a smettere. Secondo lei sono delle buone soluzioni? Direi che sono tutte iniziative interessanti, anche quella di vendere le sigarette sfuse mi sembra come dire, una buona idea. Allora, il modo più efficace di smettere sembra sia di dare un taglio netto, no? Ma in realtà è chiaro che sappiamo tutti che sarebbe meglio non iniziare, perché poi questa è un'abitudine difficile da combattere. Invece i ragazzi, nonostante le campagne di cui abbiamo raccontato, nonostante gli inviti, le raccomandazioni, le suppliche di mamma e papà, fumano. Il 14% degli studenti fuma regolarmente, il loro numero è in aumento, il 34% degli studenti delle scuole superiori è convinto che le sigarette non siano poi così dannose come invece medici e media sostengono. Il 47% pensa che il vizio provochi solo eventualmente febbre, tosse o mal di stomaco, l'80% inizia perché lo fanno i miei amici e compagni di scuola, dunque perché non dovrei fare anch'io, mentre per 8 ragazzi su 10 si può tranquillamente provare, tanto smettere poi è facile. E ancora per il 58% la nicotina non dà alcuna dipendenza, altrimenti sarebbe illegale. Sono solo alcuni dei dati emersi dal sondaggio condotto dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica attraverso una app con le sigarette meglio smettere, un'indagine condotta fra gli studenti appunto del biennio delle scuole superiori. Allora, dottor Di Paco, secondo lei rendere i pacchetti di sigaretta anonimi servirà a convincere i giovani fumatori a smettere? Ma diciamo che può servire tutto, ovviamente le cose fondamentali sono nei confronti soprattutto degli adolescenti, questa diciamo ricerca fatta attraverso le app è importantissima, conferma anche i dati che avevamo pubblicato noi, inteso come io e il dottor Boffi, riguardo uno studio fatto sulle scuole medie, dove si dimostrava appunto che il 14% dei ragazzi in terza media fumavano già. Tutto può servire. Una delle cose importanti, un dato che non è stato citato mi sembra, è che questi ragazzi hanno il 50% questi ragazzi che fumano, che iniziano a fumare, hanno il 50% dei fumatori che sono genitori stessi. E quindi ecco, un briciolo di credibilità anche da parte dei genitori non guasterebbe. Quindi dare l'esempio credo che sia l'aspetto fondamentale, no? I genitori si preoccupano subito se un ragazzino ha un calo della vista piuttosto che se ha un neo, e lo portano subito dal dermatologo, dall'oculista. Quando invece si tratta di fare loro stessi delle rinunce e dare l'esempio, beh lì insomma ci vanno un pochettino più cauti. Ovvio, non viene percepita come una malattia quella, evidentemente. Esattamente. Quindi questo è la cosa importante. Per i meccanismi comunicativi ce ne sono molti. Le strategie, secondo me, tutto dovrebbe partire, come sempre, dalla scuola, e a fornire appunto ai referenti della sanità della scuola gli strumenti per poter in qualche modo rendere edotti i ragazzi sui rischi da fumo. Ecco, questa ricerca dimostra che c'è un po' di ignoranza, perché il fatto di non riconoscere nel fumo una dipendenza è abbastanza inquietante. E infatti, tanto smettere è molto facile, appunto, significa proprio essere all'oscuro del fatto che invece è un vizio che è difficile debellare. Allora, dottor Di Paco, noi tra poco dobbiamo dare la linea al giornale radio, quindi continuerò questa bella chiacchierata con lei subito dopo le informazioni dai colleghi della redazione. Ci interessa anche sapere la sua ulteriore opinione, visto che lei collabora con numerose squadre di calcio e quindi è la persona più qualificata a sottolineare che fumo e sport e non vanno assolutamente d'accordo. Molti di questi ragazzi peraltro sono degli sportivi, quelli delle scuole appunto che sono stati interpellati da questo sondaggio, e poi lo sport e gli sportivi sono sempre dei modelli molto seguiti dalla platea giovanile, per cui faremo un ragionamento anche su questo, continuando a sentire anche i nostri ascoltatori all'800240024. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Vicinissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ben tornati insieme oggi. Stiamo parlando della giornata mondiale senza tabacco, un'occasione buona per provare a smettere di fumare. Non smetteremo mai di rivolgervi questo invito, anche perché i numeri sulle persone che muoiono ancora in Italia per questa cattivissima abitudine sono troppo alti, e vi abbiamo invitato anche a lanciarci a lanciarvi anche in una vostra personale campagna per combattere questo fenomeno italiano. Allora, chiamateci se volete all'800 24 00 24. Un ascoltatore prima ci diceva: perché non si smette di venderle in pacchetti, meglio sfuse, così si rompono in tasca, sono scomode, magari questo può rappresentare un deterrente per molte persone all'acquisto. Altri invece puntano tutto sul prezzo, 20 euro a pacchetto, e vedrete che il consumo si ridurrà drasticamente. Noi stiamo facendo tutta una serie di considerazioni stamattina, abbiamo fatto un focus sui giovani che alle scuole superiori iniziano a fumare per moda, perché non fermati dai genitori che non riescono, in realtà forse magari i genitori pensano meglio una sigaretta che magari chissà che cos'altro, e quindi questo è il motivo per cui anche tra i giovani questa abitudine sta crescendo. Con noi stamattina il dottor Adriano Di Paco, medico pneumologo del centro svezzamento e riabilitazione respiratoria Auxilium Vitae di Volterra, che è ancora in linea con noi. Dottor Di Paco, c'è? Sì. Eccoci qua. Allora, prima avevamo lanciato appunto con lei la considerazione relativa al fatto che spesso riteniamo magari gli sportivi le persone più qualificate a così mandare dei messaggi che vengono ascoltati soprattutto fra la popolazione giovanile, ma in realtà quello che ci interessa, visto che lei è anche un consulente per numerose squadre di calcio di Serie A e Serie B, sottolineare appunto che fume e sport non vanno d'accordo, è un binomio a rischio non solo per gli atleti professionali ma anche per quelli amatoriali. Cosa succede, dottor Di Paco? Ovviamente chi fuma ha molto meno fiato, immagino, di uno sportivo normale. Anche questo è un messaggio da rivolgere per motivare qualcuno a non fumare o a smettere di fumare? Certamente, anche per i ragazzi, no, che vedono nel calciatore di elite in particolare un modello da imitare. Ecco, ci sono per fortuna pochi calciatori, sono quelli che sono, diciamo, accaniti fumatori, e sicuramente il fatto di fumare peggiora le performance sportive, ma questa è una cosa abbastanza scontata e fisiologica. Ci sono degli equivoci, no? C'è qualcuno che dice fumare mi calma, in realtà la cosa che viene messa a tacere è l'astinenza dalla sigaretta, quindi non è affatto la sigaretta che calma, anzi il fumo di sigaretta induce un aumento della frequenza cardiaca, come l'astinenza da fumo induce un aumento della frequenza cardiaca e quindi il peggioramento della gittata sistolica, motivo per cui non aiuta la prestazione. L'altro motivo immediato, e è facile da comprendere, è che il monossido di carbonio che si libera come prodotto di combustione del fumo va a coprire i siti per l'ossigeno sull'emoglobina, e quindi si lega più facilmente, diventa più carbossiemoglobina, e quindi anche lì inibisce la prestazione atletica. Questi sono, diciamo, fatti immediati che succedono appena si fuma una sigaretta. Mm-hmm. I rischi invece connessi all'uso delle sigarette per lungo periodo sono quelli che sono uguali sia per gli atleti che per i non atleti. Infatti, quindi la possibilità di sviluppare malattie polmonari importanti fino anche ad arrivare alle neoplasie polmonari. Dottor Di Paco, mi incuriosiva un messaggio che ci manda Rodolfo, che ci scrive: io ho smesso di fumare da quasi un anno, non vedo però ancora benefici, vado avanti perché sono convinto, quello che non sopporto è l'atteggiamento talebano nei confronti dei fumatori. La prima parte della domanda: ho smesso di fumare da quasi un anno ma non vedo ancora benefici, è possibile? Secondo lei, in realtà, c'è chi si sente, dal punto di vista ovviamente dell'azione respiratoria, sollevato in tempi anche abbastanza rapidi? È individuale l'effetto, l'efficacia dell'interruzione del fumo, appunto? Dunque, un fatto è la percezione soggettiva, è un fatto è l'abbattimento dei fattori di rischio che si sviluppano con la cessazione dall'abitudine al fumo. Sulla percezione soggettiva diciamo che si fa poco, nel senso che la sensazione di migliorare la quantità, la propria capacità di respirare piuttosto che la performance è molto legata anche all'età del soggetto che ha smesso di fumare. Molto importante invece capire che smettendo di fumare dopo 5 anni, per esempio, il rischio relativo di sviluppare una neoplasia è praticamente uguale a un non fumatore. Questo è veramente importante. Infatti, vediamo adesso se ce la facciamo ad aprire anche il capitolo della sigaretta sostitutiva, di quella elettronica. C'è una letteratura molto dibattuta anche su questo argomento, sulla diffusione, peraltro diffusione che sta aumentando. Questa mattina ci sono dei dati sul Corriere della Sera che raccontano che nel 2016 si registra per la prima prima volta dopo 3 anni un sensibile incremento dell'uso della sigaretta elettronica. Gli utilizzatori sono passati dall'1,1% del 2015 al 3,9% del 2016. Adesso ne parleremo, ma intanto, siccome stanno arrivando tanti messaggi molto belli, e con un medico che trasmette anche un esempio così importante questa mattina, mi piace anche trasferire queste considerazioni degli ascoltatori. Intanto, dottor Di Paco, le racconto che un ascoltatore, Franco Manu, su Twitter ci ha mandato una sua foto con l'ultimo pacchetto e ci ha scritto: dal 2001 felicemente divorziato dalle sigarette, conservo ancora l'ultimo pacchetto, ce ne erano 18, le guarderà lì come una reliquia religiosa, speriamo di no. Fra l'altro credo che sia l'unico evento, diciamo, di separazione che porta un guadagno, no? Esatto, perché il divorzio e la separazione, quelle vere, insomma, in realtà costano molto alla coppia, anche a quella che magari ne risulta più avvantaggiata. Il messaggio a cui tengo di più però è quello che ci manda su WhatsApp Antonio, dottor Di Paco. Sono giovanissimo, non ho mai fumato in vita mia. Mia madre purtroppo ha questo vizio, fuma ovunque in casa, addirittura in bagno. Se glielo faccio notare, non solo si arrabbia, ma si arrabbia anche furiosamente. Che cosa posso fare? Qual è l'esempio? Deve avvenire al contrario, pensi lei? Certamente, questo speriamo di poter creare, diciamo, nelle nuove leve questa nuova cultura, no? Quindi dar la possibilità a questi giovani di agire sui familiari diretti, sui nonni piuttosto che sui genitori. È importantissimo che si rechi a un centro antifumo. Poi penso affronteremo anche la questione dei farmaci per la disassipazione all'abitudine al fumo, ma è fondamentale che venga seguita da dei professionisti, perché mi sembra di capire in questo caso che anche questa sua dipendenza è molto forte, no? Quindi infatti fuma continuamente, fuma anche in bagno, a regola sarebbe una cosa buona, no? Perché dovrebbe fumare, sì, esatto, sul terrazzo, quindi è ancora meglio. Però ecco, questo è il caso in cui secondo me è opportuno, come per il fumatore, diciamo, occasionale, recarsi in un centro antifumo. Il problema è capire come questo ragazzo può fare a convincere sua mamma, perché mi pare proprio la partita più complicata. Allora, dottor Di Paco, a proposito di smettere, da donna di denari, non posso fare a meno di notare che, a differenza degli altri paesi europei, in Italia le spese dei farmaci per smettere di fumare sono a carico di chi smette. E parliamo di una spesa intorno ai 100 euro, perché il tabagismo non è considerato ufficialmente come dipendenza e per questo non è inserito nei livelli essenziali di assistenza che danno diritto a cure gratuite. Mi chiedo, secondo la sua esperienza, le cure gratuite potrebbero spingere di più le persone a provare a smettere? Perché spesso il fumatore, da quanto ci raccontano i nostri ascoltatori, si sente un po' solo, abbandonato. Anche i centri antifumo non sono noti a tutti, no? Dottor Di Pacolo, su questo aspetto cosa possiamo dire? Certamente. Se ne spendono tanti di soldi, voglio dire, anche buttandoli via tante volte in spese inutili. Per cui. Sì. No, a parte che, dunque, io la metto sempre sul fatto che questo è un investimento, perché se poi uno riesce a smettere di fumare, ovviamente sono soldi ben spesi, perché poi ritornano in termini economici hanno una ricaduta positiva, perché si risparmia poi di fatto un sacco di soldi. Però è una grave lacuna, diciamo, che lo Stato non si faccia carico di questo problema. Perché? Perché ahimè c'è una carriera del fumatore, cioè il fumatore riesce a smettere, sta qualche anno magari senza fumare o dei mesi senza fumare e poi ricade nell'abitudine, e questo ahimè non è imputabile al fatto, è proprio imputabile alla dipendenza, quindi non all'aspetto economico. Importante invece sarebbe creare dei percorsi anche per le fasce più deboli, che dovrebbero essere più tutelate, un percorso, come dire, di tipo gratuito, assistenziale, per la disassefazione al fumo. Quindi potenziare centri antifumo e rendere i farmaci che si usano per la disassefazione come dei farmaci gratuiti. No, questa gliela devo leggere, dottor Di Paco, perché un'altra idea di campagna efficace, secondo un ascoltatore, potrebbe essere questa: dobbiamo sottolineare quanto il fumo danneggi le performance sessuali, e allora vedrete che lì in testa il messaggio passerà. Che ne dice? Certo, però l'onnipotenza dei 25 anni, no? Ormai esatto, è fatta padroni, non basterebbe forse neanche questo. Certo. Dottor Di Paco, sul tema invece delle sigarette elettroniche, il suo pensiero qual è? Sì, è un argomento ancora molto aperto. Io, diciamo, da professionista sono molto attento e sensibile a questa tematica. Recentemente, mi sembra a fine 2013, avevamo pubblicato un lavoro su tumori con l'amico Boffi, proprio sui rischi connessi all'uso della sigaretta elettronica, oppure valutarlo se fosse solo un esercizio commerciale. Il fatto che vengano venduti nelle tabaccherie, un po' insospettisce, no? E questa è la considerazione banale che mi viene da fare. L'altra cosa è che all'interno di queste sigarette elettroniche troviamo la nicotina, che poi è quella che dà dipendenza. E non solo, ma poi ci sono problemi anche per le categorie più a rischio, quindi gli adolescenti. C'è uno studio americano che dimostra come sia addirittura come si avvicinino a svapare, no? Come primo meccanismo per poi approcciarsi al fumo in generale. E quindi, insomma, è un argomento molto dibattuto che deve essere oggetto di studio. Non essere demonizzato, ma nemmeno promosso da un punto di vista sanitario senza le adeguate certezze e senza le adeguate conferme scientifiche. Allora, Gerardo da Reggio Emilia vorrebbe dirci che la sua soluzione sarebbe quella di non mettere in circolazione le sigarette. Gerardo, non riesco a sentirla, vorrei, per completare il nostro ragionamento sul fumo, accogliere Enrico da Prato molto velocemente per commentare la sua idea con il dottor Di Paco prima dei saluti su questa parte. Enrico, benvenuto. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Per quello che fare. Allora, sono un medico, ho 70 anni, sono un otorino, lavoro tuttora. E io ho smesso quando avevo 34 anni, sono 36 anni che ho smesso di fumare. Come ho fatto a smettere? Mi sono guardato allo specchio, la prima cosa, mi sono voluto guardare dentro. La seconda, ho ritardato più possibile la prima sigaretta. Perché la prima sigaretta è quella che prepara la bocca e tutto l'apparato respiratorio. Sicuramente e fortunatamente a me dava noia. Poi in quanto torino ogni tanto mi facevo visitare perché avevo dei problemi. Certo. Per cui la prima sigaretta e si fuma più la mattina del pomeriggio. Infatti. Ah, ecco, quindi lei dice la ritardavo il più possibile in quel senso. Pensavo in termini anagrafici, ovvio. No, ritardata nel senso. Lo so. Si arrivava al pomeriggio. Enrico, grazie. Lei in quanto medico naturalmente aveva anche forse una marcia in più nel comprendere certi meccanismi, dottor Di Paco. Allora lanciamo questo invito: se proprio volete smettere, non ce la fate, quantomeno ritardate quanto più possibile l'inizio della giornata da fumatore, e magari lì è già un primo passo. Che dice? Sì, è un passo fondamentale, perché la prima sigaretta è quella che ci riconcilia con la dipendenza, perché ovviamente il periodo in cui si dorme è un periodo lunghissimo, no? Quindi sono almeno 6-8 ore. E qual è il fumatore che sta 6-8 ore senza accendere una sigaretta? Praticamente nessuno. Quindi la prima sigaretta è fondamentale perché, diciamo, copre questa dipendenza farmacologica importante. E quindi ritardarla vuol dire ritardare la dipendenza. E quindi è un buon meccanismo anche per allontanare, come dire, la dipendenza stessa. Quindi fino ad allontanarla definitivamente. Dottor Di Paco, grazie per essere stato con noi. Per salutarla le leggo anche questa notizia, perché in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che ribadisco si celebra oggi, il motore di ricerca voli, hotel e auto noleggio skyscanner.it e la Lega Italiana Antifumo hanno realizzato una ricerca che vuole dare a quanti vogliono smettere di fumare uno stimolo, una motivazione in più per perseverare nel proprio interno. È una motivazione fortemente economica. Dopo solo un mese senza fumare si risparmierebbe già l'equivalente di un volo in Ungheria o a Malta, e con 2 mesi ci si potrebbe regalare un viaggio in Grecia, in Spagna, Regno Unito e moltissime altre destinazioni europee. Se il sogno nel cassetto, una vacanza al mare ai Caraibi o volare in Australia, bisognerebbe stare alla larga dalle sigarette per almeno 9-13 mesi, quindi un annetto, ma insomma sarete sicuramente ben premiati. Quindi obiettivo, un bel viaggio. Grazie dottor Di Paco, a presto. Grazie a voi, buona giornata. E noi mettiamoci alla guida. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata. Allora, 100 all'ora e poco più, mi raccomando, solo se siete in autostrada. Per il resto invece prudenza alla guida. Sentite già che c'è la voce qua del grillo parlante che introduce appunto l'ospite che fra un po' vi presento. Allora, molti italiani stanno pianificando le loro vacanze e vedremo se quest'anno potrà manifestarsi un altro segnale di superamento della crisi, magari con un budget un po' più ampio per le ferie. Oggi noi però vogliamo occuparci di tutti coloro che partono in auto e scelgono una meta straniera. Spesso è un tema che sottovalutiamo. Siamo sicuri che la nostra patente, per esempio, sarà valida nel luogo prescelto? Ma soprattutto, come dobbiamo comportarci con la copertura assicurativa? Basta quella che abbiamo? Meglio ampliarla? Contro che eventualità? E come funziona la famosa carta verde, cioè il certificato internazionale di assicurazione auto? Ce l'abbiamo tutti? Voi sapevate di averla con la vostra copertura assicurativa normale? Per rispondere a tutte queste domande abbiamo invitato un amico di Cuore e Denari che salutiamo. Raffaele Pellino, buongiorno. Buongiorno. Già presidente dell'Ufficio Centrale Italiano, che è l'organizzazione, questa organizzazione è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per i Veicoli a Motore in Circolazione Internazionale, ma soprattutto è un esperto storico del Sole 24 Ore sulle tematiche assicurative. Quanti libri ha scritto su questo tema per il Sole? Qualcuno. Un po'. Continua però a rispondere all'Esperto Risponde. La rubrica ancora trovate la sua firma. Sì. Luci si occupa principalmente di gestire le problematiche, Luci, l'Ufficio Centrale Italiano, le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che circolano temporaneamente in Italia. Però insomma, le informazioni che Pellino ci darà questa mattina, esatto, anche al contrario, cioè cosa succede se siamo invece noi protagonisti di un incidente stradale all'estero? Speriamo di no, perché già insomma è un'eventualità che non ci piace proprio considerare. Allora, se avete proprio fatto un pensiero di questo tipo, se siete pronti a partire per le vostre vacanze quest'anno, volete mettere insieme o la famiglia o gli amici, magari guidare voi e farvi un giro in Europa, siete a posto con tutti i documenti e soprattutto con l'assicurazione, se avete delle domande noi siamo a vostra disposizione all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. No, stavo guardando intanto un messaggio di un ascoltatore che ci raccontava: mia figlia lavora in Germania e pensavo che avesse una domanda proprio su un viaggio all'estero, invece no, ci raccontava che lì concedono un giorno di ferie in più a chi non fuma. Brava Nadia, anche questa ci sembra una bella idea. In Germania hanno anche lì sempre il solito spread di comportamento nei nostri confronti. Prendiamo un esempio. Dottor Pellino, allora, la nostra patente di guida, quella che prendiamo in Italia, è sufficiente per andare ovunque in Europa? Ovunque in Europa senz'altro sì, e anche in molti paesi extraeuropei. È certamente sufficiente, e non è valida per alcuni paesi molto lontani, tipo America eccetera, per quale servono delle integrazioni. Le informazioni su questo argomento sono molto ben scritte e dettagliate sul sito Viaggiare Sicuri. Esatto, che è il sito praticamente della Farnesina, sì, del Ministero degli Esteri, che ci documenta dove sono per esempio adesso le località a rischio, dove sarebbe meglio non andare, ma anche invece, come dire, tutte le località dove vogliamo viaggiare, quali sono le abitudini. Sono più stimolanti quelle segnalazioni. No, ci elencano praticamente tutte le buone prassi a cui ci dovremmo abituare quando andremo a viaggiare. Soprattutto la regolarità documentale, che è fondamentale, perché rischiamo... Che è un tema che sottovalutiamo spesso. È un tema che sottovalutiamo perché siamo spesso talmente abituati a un non controllo dei nostri documenti nella circolazione nazionale, per cui riteniamo che ovunque sia così. Invece non è così e possiamo esporci a rovinarci le vacanze, certo, anche con piccole infrazioni. Tra l'altro non è detto che dobbiamo stare attenti a questi aspetti solo se andiamo in giro con la nostra auto personale, ma anche se la noleggiamo un'auto, no? Condurre una macchina, qualunque macchina sia, presuppone il possesso di idonea documentazione. Lei che ha tanta esperienza su questo argomento, quali sono le sciocchezze più frequenti che l'italiano quando va all'estero e vuole guidare fa? Ma le solite imprudenze sulla velocità, per esempio, che possono costare molto care. Non conoscere quindi per esempio intanto i limiti di velocità. I limiti di velocità, che a volte sono espressi in miglia, e questo crea confusione nei paesi anglosassoni. Certe superficialità, sottovalutiamo molto spesso le indicazioni stradali e ci possiamo trovare esposti a dei seri pericoli. Allora, dicevamo che la patente di guida è sufficiente per andare ovunque in Europa. Ovunque in Europa, no? E anche in paesi extraeuropei. Però per qualche paese extraeuropeo è richiesto un permesso internazionale di guida, che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere appunto accompagnato dalla patente nazionale. È un'estensione della patente nazionale. In sostanza l'abilitazione nasce dal proprio Stato. Questa abilitazione può essere estesa con questa certificazione, che è rilasciata secondo i vari modelli esistenti, ecco, all'estero. Chi lo rilascia allora generalmente questo permesso internazionale? C'è l'autorità italiana? Ma gli uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti Stradali. Tra l'altro leggevo che bisogna anche fare attenzione due distinti modelli di patente internazionale, sì, che sono pazzesca. Previsti, esatto, da una due grande convenzioni. Complicazione che spero prima o poi venga abolita. Esiste un modello cosiddetto Ginevra 49, esatto, 1949, che ha una validità di 3 anni e che è valida in alcuni paesi nei quali è richiesto. Esiste poi un modello Vienna 1968, che è già più romantico, che vale solo 1 anno ed è utilizzato in altri paesi. Anche queste informazioni sono ben descritte sul sito Viaggiare Sicuri. Allora, quindi permesso internazionale, patente di guida, naturalmente quella che ci viene rilasciata dal nostro paese la di origine. La interrompo per dirle che è importantissimo possedere una delega a condurre. Ah. Se io esporto un veicolo intestato a me, è bene che mi munisca di una delega rilasciata con scrittura privata autenticata dal proprietario che mi autorizzi all'esportazione di questo veicolo, altrimenti potrei essere scambiato per un ladro. Io veramente che non sfido, è molto piacevole. No, infatti sfido tutte le persone che sono pronte appunto magari a lanciarsi quest'anno in un'esperienza di guida internazionale se hanno pensato a tutti questi aspetti, quindi veramente speriamo stamattina di fare un lavoro utile per tutti. 800 24 00 24 numero verde a vostra disposizione. Intanto c'è un ascoltatore che ci scrive anche: guidiamo regolarmente negli Stati Uniti senza ulteriori certificazioni. Adesso vediamo se ci specifica meglio appunto questo ascoltatore, ma magari dipende, non so dottor Pellino, dal fatto che siamo in una vacanza o se abbiamo una permanenza più lunga. Non è dato saperlo. Non c'è appunto questa specifica. Adesso io in ogni caso non mi arrischierei di guidare senza documentazione per il solo fatto che magari non viene controllata, perché la volta che viene controllata posso espormi a dei grandi contrattempi, a delle perdite di tempo. Quindi lei suggerisce che cosa? Di io andare suggerisco via. Di essere in regola sempre con la documentazione, sia questo relativa al veicolo, sia relativa alle abilitazioni alla guida. Quindi andare via per qualunque località con la patente di guida e verificare. Se verificare siamo in un paese extraeuropeo, per esempio, che bene. Ci sia questo permesso di circolazione internazionale. Rovinarsi le vacanze è veramente una stupidaggine. Allora, intanto siamo già giunti al momento di raccontare la giornata di borsa, poi apriremo il capitolo carta verde, nome dovuto al colore del documento cartaceo con cui viene rilasciata appunto ai soggetti che ne fanno richiesta, il certificato internazionale di assicurazione che attesta la validità della nostra RC auto anche all'estero. Ce l'ha rilasciata la nostra compagnia? Vi siete mai fatti questa domanda? Raccontatecelo a tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Cuore e Denari. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. Nella macchina. Vabbè, insomma, non è detto, c'è chi ama molto guidare, chi si rilassa. A me in genere piace, per esempio, sono anche quella che la prende più frequentemente fra tutti gli amici, anche perché se poi mi metto dall'altra parte, quella del passeggero, praticamente mi viene da vomitare, per cui devo guidare per forza, quindi devo far intervenire poi Nicoletta che mi suggerisce tutti appunto i rimedi contro il mal di auto. Detto questo, quelli di cui stiamo parlando questa mattina invece sono quei conducenti, guidatori, famiglie, gli amici, insomma, che vanno molto all'estero e che magari sono documentati al massimo su come essere in regola con tutti i permessi internazionali di guida, ma il focus di oggi è su coloro che invece magari hanno pensato quest'anno di fare una vacanza all'estero, partiranno in auto e ancora non hanno messo ben la testa su questa questione. Allora, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice anzi, che ci scrive: lavoro presso la motorizzazione di Bari, posso dirvi che per l'estero è necessario un permesso internazionale di guida che rilasciamo proprio noi della motorizzazione civile. Ne stavo parlando a microfoni spenti con il nostro ospite di questa mattina, esperto di assicurazioni auto Raffaele Pellino, esperto storico del Sole 24 Ore, già presidente dell'UCI, ufficio centrale italiano, che è l'ufficio appunto che rilascia anche la carta verde della quale adesso parleremo. E dicevamo, sì, il permesso internazionale di guida è meglio dotarsene prima di partire, non è detto che poi appunto serva per esempio per prendere l'auto a noleggio. Più frequentemente potrebbe essere che ci viene richiesto se serve per essere in regola, punto. Poi che ce lo chiedano se noleggiamo un'auto è un'altra cosa. Potrebbe essere più facile che ce lo chiedano se ci capita un incidente, magari allora le forze dell'ordine. Problemi. Allora ecco. Sono veramente problemi. Allora, andiamo alla signora Carta Verde, Pellino. Sì, lei è Carta la massima Verde. Autorità sì. mondiale di questo argomento. No, italiana. Le devo chiedere di avvicinarsi un pochino al microfono, mi grazie. Avvicino al microfono. Allora, è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la validità della mia polizza assicurativa anche all'estero. Sì. Quindi ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tutti anche quando non serve, nel senso che la carta verde è espressione di un sistema al quale partecipano ben 46 paesi, quindi spazio economico ormai più tantissimi altri, ed è rilasciata dalla compagnia sotto la responsabilità degli uffici nazionali di assicurazione, per l'Italia l'UCI. È un documento che serve a estendere la validità della copertura assicurativa ai danni causati nel paese visitato, ci mette al riparo da tutti i problemi possibili e immaginabili, perché adegua il nostro contratto alla legislazione vigente nei singoli paesi visitati. Certo. Quindi è estremamente importante esserne in possesso, anche se bisogna dire subito che per ben 20, per i paesi dello spazio economico europeo, più alcuni altri assimilati, non viene neanche rilasciata, perché in questi paesi il veicolo non è soggetto al controllo delle assicurazioni. Spazio economico europeo è il Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, alcuni paesi assimilati, leggi il più vicino a noi, la Svizzera. In questi paesi la carta verde non serve, in quanto gli accordi internazionali presuppongono che targa vale assicurazione. Serve invece in tantissimi altri paesi, il totale è 46, e vale per tutti i paesi indicati con la sigla di nazionalità nel documento che la compagnia ci rilascia, che non sia sigla, che non sia crocettata, diciamo noi, o che non sia annullata. In passato e oggi leggermente meno, alcuni paesi sono stati, in alcuni paesi nei quali le compagnie potevano non rilasciare la copertura, sono state crocettate perché sono nati dei problemi in sede di incidenti. Cito l'Albania, cito il Marocco, che anche attualmente sono fra i paesi per i quali le compagnie che possono non dare la copertura non la danno. Ricapitolando, quindi, abbiamo lo spazio economico europeo, che è automaticamente coperto assolutamente, anche senza indicazione, anche senza rilascio della carta verde. Gli altri paesi, fino a 46 elencati nel documento per i quali va la copertura, a condizione che la sigla non sia annullata. Attualmente c'è questa prassi, prevalentemente ritengo esclusivamente per Albania e Marocco. Quindi il tema è che questa è una sorta di assicurazione internazionale. Ma questa che permette... è un'estensione all'estero, ai paesi visitati, del contratto di assicurazione per danni contro terzi che io ho stipulato presso la mia compagnia in Italia, ed è esteso alle condizioni in vigore nei singoli paesi. Certo. Quindi sì, in termini di massimali, in termini di copertura, trasportati sì, trasportati no, ecco. Io la pago, la pago nel mio premio annuale. Io la pago nel mio premio annuale. Ma se uno dice io all'estero non ci vado, non ci andrò mai, non ci voglio assolutamente andare, può chiedere uno sconto alla compagnia assicurativa? No, perché le tariffe praticate dalle compagnie, comprendono queste estensioni. Quindi, perfetto. Allora, 800 24 00 24, adesso vi spiegheremo anche, perché vedo che è un'altra domanda gettonatissima fra i nostri ascoltatori. Allora, se mi capitasse di fare un incidente, come mi devo comportare, quali documenti devo esibire, e magari qualcuno vuole anche raccontarci di incidenti e disavventure già capitate, e raccontateci appunto se magari la vostra documentazione non era a posto, e quindi magari la lezione può esserci utile anche da trasmettere ad altri ascoltatori. Intanto sentirei Claudio da Varese. Claudio, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, io volevo esporvi questa situazione. Io a luglio andrò in Montenegro, non è stato citato tra i paesi esclusi dalla Carta Verde, però siccome valutavo di andare con l'auto di mia sorella, perché consuma meno, perché è un diesel, se dovevo comunque portarmi dietro qualche certificazione riguardo anche al discorso precedente, riguardo al fatto che io non sono un intestatario dell'auto, posso essere... Delega all'esportazione, controllo dell'assicurazione, che la sigla Montenegro non sia crocettata. Leggevo però dalle istruzioni appunto sul vostro sito, dottor Pellino, che è necessario il possesso della carta verde se il viaggio comprende la circolazione in tutta una serie di paesi, Montenegro compreso. Certo, appunto, perché non è Europa, ecco. Non è spazio economico europeo. Quindi appunto raccomandando un corretto delega comportamento. Delega all'esportazione, delega a guidare la macchina anche in la paesi delega esteri. Delega a condurre. Delega a condurre e controllo che la sigla Montenegro non sia crocettata sulla carta verde. Benissimo. Claudio, a posto così? Posto. Grazie. Andrea da Brescia. Andrea da Brescia, invece a lei che cosa serve sapere? Sì, buongiorno. Anche la mia domanda riguarda la delega a condurre. A condurre all'estero. È necessaria anche se il proprietario è fisicamente presente trasportato? Eh certo, praticamente se vi date il cambio alla guida, ma lei vuole, insomma, sapere. La domanda è un po' sottile. Se il proprietario è a bordo, può dire a qualunque autorità che dovesse fermare la macchina che il veicolo è suo e che in quel momento si è astenuto dalla guida. Però lei dice, insomma, non è proprio obbligatorio fare sì, anche proprietario il documento. C'è, sarei un po' più Ma è tanto complicato fare una delega ma a condurre. No, assolutamente, Paulina, è una scrittura ecco. privata autenticata. È una scrittura privata con la quale si dice delego il TNE con una firma della cui... Il tema è che Andrea vuol far guidare sempre al suo passeggero, praticamente vuole diventare lui passeggero in quanto proprietario. Ho provato anch'io, mi sono mai riuscito. Quindi, insomma, magari forse Andrea, se se la fa, visto che non è un documento che richiede un grande sforzo, magari l'autentica farla. Può essere fatta per uffici comunali a costo zero. Allora, andiamo un po' alla questione incidente all'estero, sinistro all'estero, naturalmente sperando che nessun sinistro vada a rovinare le vacanze dei nostri amici, visto che stiamo formulando oggi tutte le raccomandazioni del caso per chi quest'anno volesse fare questa vacanza all'estero e per la prima volta decide di farlo in auto, portando indietro magari... No, sui minori dobbiamo fare qualche raccomandazione, Pellino. È chiaro che l'auto, ancora di più, deve essere a posto, la nostra assicurazione deve essere a posto, permessi internazionali a posto. Ma deve essere a posto anche in Italia. Esattamente, tutto questo, ovviamente. Dobbiamo esprimere qualche raccomandazione in più se ci sono minori a bordo? Di non aprire la porta mentre guidiamo. Esatto, e non lanciarli dalle finestre, ecco, i bambini, lanciarli, se fanno confusione. Allora, la carta verde, se faccio un incidente, entra in gioco e va a coprire l'assicurato per i danni provocati a terzi o per quelli subiti? No. Stop. Per danni provocati a terzi, stop. Nel senso che la carta verde è una estensione della propria copertura di responsabilità civile, quindi serve a tutelare il mio patrimonio per i danni che faccio a terzi. Per quelli subiti il problema è completamente diverso, perché se io subisco un danno senza alcuna mia responsabilità, quindi con ampio diritto al risarcimento, non è la carta verde che mi protegge, ma mi proteggerà l'assicurazione dell'altro o mi proteggerà il bureau del paese che ho visitato qualora l'altro non fosse assicurato. Certo, anche negli altri paesi rilasciano la carta verde equivalente a una green card. Sì. La carta verde è un documento molto, molto, molto particolare. Lei prima citava il discorso dell'abolizione dell'emissione dei documenti di assicurazione. Del contrassegno assicurativo. Ecco, la carta verde non può essere demetarializzata, perché il modello carta verde è soggetto a un modello rigidissimo. Ogni variazione è soggetta all'approvazione del sottocomitato per gli sport su strada dell'ONU con sede a Ginevra. Deve essere stampata fronte e retro, deve essere di colore verde. Ci sono dei tentativi ora anche in sede internazionale per alleggerire questi problemi, per poterne, per esempio, le compagnie che lavorano online vorrebbero trasmettere la carta verde ai propri assicurati senza emettere i documenti, ma l'assicurato è in grado di stampare la carta verde fronte e retro con una carta di colore verde? Questi requisiti sono stati introdotti nel 49 da questo sottocomitato di strada per facilitarne il controllo in qualunque paese. Ecco, questa rigidità comporta che questo certificato non può essere dematerializzato, quindi deve essere emesso dalla compagnia e spedito. Quindi almeno questo almeno ci deve ora. Essere consegnato. Almeno per ora, perché? Deve essere consegnato alcune volte su richiesta, altrimenti spesso in via ufficiale. Senta, che problemi sta creando il fatto appunto che il contrassegno assicurativo sia stato dematerializzato? Nessuno, assolutamente. Quindi anche per chi viaggia all'estero ha la carta verde, sì. Quindi può stare tranquillo per il fatto che non deve più esporre tranquillo. Il tagliando. Allora, 800 24 00 24, ancora molte domande da parte dei nostri ascoltatori. Vediamo un po' cosa ci racconta Mario da Pistoia, un gran viaggiatore. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sì, ascoltando la vostra trasmissione, io ho vissuto all'estero e ultimamente mi capita di viaggiare nei paesi dell'est, Montenegro, Kosovo, Albania, Serbia, Slovenia, eccetera, eccetera. Devo dire che non ho mai stato fermato più volte anche dalla polizia, nessun problema con la patente, che richiedono sempre la carta verde. E vorrei tranquillizzare anche chi vuole mettersi in viaggio, perché per esempio in Albania appena arrivi al confine ti chiedono di fermarti subito, di fare una polizza immediata in una casupola lì vicino, quindi è tutto abbastanza organizzato, molto sereno, mi hanno controllato in Serbia. Però c'è un costo. Quanto costa questa polizza? È un costo. Si chiama polizza di frontiera. Bravo, esatto. Infatti. Grazie Mario, perché volevo proprio introdurre questo argomento. Allora adesso ci ascoltiamo cosa sta succedendo stamattina sulle strade italiane, poi andiamo alla polizza temporanea di frontiera. Grazie a Mario abbiamo scoperto subito di che cosa si tratta. Tra poco. In Albania. Cuore e denari. Il Maggiolino tutto matto. Allora, ecco, è ovvio che prima, ancora prima direi di controllare che i documenti per circolare all'estero siano a posto, controlliamo intanto che l'auto sia a posto, quindi manutenzione ordinaria e straordinaria, attenta prima di metterci alla guida di partire, dopodiché documenti a posto, siamo pronti appunto per le nostre vacanze, magari per la prima volta in auto all'estero. Raffaele Pellino, già presidente dell'UCI, l'ufficio centrale italiano, pensate che in passato lo chiamavano Mister Carta Verde in Italia, io così l'ho conosciuto, Raffaele Pellino. Anche. Volevo anche lanciare ai nostri ascoltatori questa nostra iniziativa, perché ancora non l'ho fatto e invece devo farlo. Allora, da oggi diventa il nostro esperto di riferimento per tutta la tematica assicurativa. Faremo un'apposita sezione sul nostro profilo, appunto, sul sito di Radio 24, ma intanto se volete tempestateci domande sul tema assicurativo anche su Facebook. Raffaele Pellino da oggi si mette a nostra totale disposizione. Certamente. No, me l'aveva promesso. Certamente, promesso mantenuto. Naturalmente domande che non siano di microscopica rilevanza, no, perché vabbè, poi facciamo fatica, facciamo anche a quelle. Quindi insomma un canale privilegiato con Raffaele Pellino, uno dei massimi esperti italiani di assicurazioni. Scriveteci, faremo appunto un'apposita sezione sul sito di Radio 24, ma intanto cominciamo a rispondervi anche in privato. Cuore denari chiocciola radio24.it, poi magari le tematiche anche di interesse generale le metteremo a disposizione di tutti gli ascoltatori. Allora, il nostro ascoltatore che va spesso all'estero, soprattutto nell'est Europa, in Albania, lui dice si ferma alla frontiera, gli fanno sottoscrivere ma questa polizza perché, di frontiera. Come abbiamo detto, la sua polizza italiana ha la sigla Albania crocettata o cancellata. Allora, a questo punto la polizia, al momento dello sbarco, gli chiede i documenti assicurativi, controlla che non sono validi e lo indirizza all'acquisto di una polizza di frontiera. Sì, lo indirizza non tanto, come dire, deve andare a farla per forza, lo mi indirizza pare, all'acquisto, paese. Lo spinge all'acquisto, lo costringe all'acquisto, lo indirizza alla casupolo, come molto detto lui. Esatto, ecco. Con gentilezza sì. Viene invitato a sottoscrivere questa polizza di frontiera. Quanto che costi ci sono? Dipende dalla permanenza? Ma dipende dai paesi, dai paesi, dalla permanenza. Sostanzialmente questo fenomeno si verifica prevalentemente per l'Albania e per il Marocco, paesi cancellati sulle nostre carte verde in via di massima, perché io ho visto che molte compagnie stanno ricominciando ma perché c'è stata poi questa cancellazione? È stata questa cancellazione perché si è visto che tutto sommato non erano cittadini italiani che chiedevano questa estensione a questi paesi, ma erano cittadini di Albania o di Marocco, che quindi andavano nei loro paesi e quindi averli non erano clienti di compagnie italiane assolutamente appetibili. Ecco. La polizza costa a seconda della durata e secondo i paesi. L'ascoltatore ci ha detto che in Albania costa 50 euro. Certo, magari avrà paese, una copertura anche annuale che ci può servire per andare più volte. No, sarà una copertura limitata nel tempo. Quindi sarà è impossibile una copertura che nel tempo. Io non sono informato onestamente sulla durata. Detto questo, Pellino, la nostra trasmissione cade a fagiolo per Francesco D'Ancona, che proprio ieri ha avuto un incidente con un'auto albanese che circolava qua. Francesco? Circolava a Iesi, a Bella Vallesina. Non ha alcun problema, esatto. Il nostro ascoltatore. Cosa le è successo, Francesco? È che questa macchina ha cambiato corsia perché si è trovata imbottigliata e mi ha usato il fianco. Io ho chiamato anche i vigili, i carabinieri, e sono venuti lì e ci hanno fatto fare il CID. Sì. Cioè la constatazione. Cosa buona e giusta. E sì. la moglie guidava la macchina, l'assicurazione è intestata al marito di origine albanesi, però vivono in Ancona loro. Ah, quindi sono presumibilmente... Ma la targa della macchina è italiana o albanese? No, è albanese. Allora non ha alcun problema, signore. Lei mandi la sua richiesta di risarcimento all'ufficio centrale italiano, Corso Sempione 39 20145 Milano. Ottimo. Oggetto richiesta di risarcimento, riporti le modalità dell'incidente, gli estremi esatti del veicolo, se avete compilato una costruzione amichevole, quindi avrete certamente rilevato la compagnia di assicurazione, indichi nella sua richiesta di alleghi alla sua richiesta di risarcimento. Quindi in questi casi è l'ufficio centrale italiano che intermedia l'indennizzo. Non intermedia, è il destinatario delle richieste di risarcimento, è il soggetto legittimato passivo nelle azioni di risarcimento, è il soggetto garante del risarcimento in ogni caso. quindi lei non abbia preoccupazioni, mandi questa richiesta come le ho detto e vedrà che nelle 48 ore lei riceverà una risposta con la quale verrà indicato quale compagnia in Italia tratta questo incidente. Senta Pellino, ma se Francesco non avesse avuto la fortuna enorme di ascoltare il programma di questa mattina, era scontato, la sua assicurazione lo avrebbe informato del fatto che la procedura in questa era maniera, questa? Sì, ecco. È una cosa più normale. Certo. Avviene per quasi 50.000 casi all'anno in Quindi Italia, insomma, ecco, la casistica è piuttosto la casistica ampia. C'è. Francesco, se non è chiaro, ci scriva a cuoredenari@radio24.it. Se non è chiaro vuol dire che non siamo chiari. No, no, ma magari vuole proprio una consulenza scritta da ma parte nostra. Noi le vogliamo volentieri. Coccolare ma fino in fondo. Vogliamo inaugurare soprattutto questa collaborazione con lei. Grazie. Che spingiamo da oggi. Va bene. Allora, altri temi da... ecco, c'era una cosa appunto molto importante che Pellino ha detto prima, che tra virgolette esula, ma si accompagna anche a tutte le raccomandazioni che abbiamo fornito fino a quest'ora, patente di guida, permessi di circolazione internazionale, carta verde, eccetera. Ma cerchiamo anche prima di partire di conoscere come funzionano i codici della strada negli altri paesi, no? Mi pare, per esempio, insomma, sappiate che si guida da un'altra parte, a Londra o nel Regno Unito. Sì, sì. Ecco, non so se Regno adesso Unito, poi tra l'altro se vogliono uscire adesso dall'Unione Europea, figuriamoci se cambiano le loro abitudini di guida. Non le rafforzeranno neanche restando. Non le cambieranno neanche restando. Esatto. Certo che se io entro in casa sua devo adeguarmi alle sue regole della casa. Certo devo stare particolarmente attento. Io ho avuto un carissimo amico che ha avuto un incidente da pedone a Londra ed è morto perché non si è reso conto che bisognava guardare da un'altra parte. Accidenti. Attraversando una strada. Quindi, anche come pedoni. Allora, poi ecco i limiti di velocità. Espressi in miglia, uno ha un calcolatorino, un attimo. No, però adesso ma magari... Ma stia sempre sotto e buonanotte. Esatto, dai. Guidi con prudenza che magari... Ecco, guidi e con prudenza comunque. Il grande additata sempre la Gran Bretagna, perché appunto il tema è la indicazione sui massimali appunto espressa in miglia. E poi oltre che in Gran Bretagna, anche a Cipro, a Malta e in Irlanda la guida è a sinistra. Sì. Per cui ecco anche questo ve lo volevo ricordare. Ho trovato anche quest'altra raccomandazione. In Austria, nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Slovacchia, i pagamenti dei pedaggi autostradali... Come avvengono? Con vignette. Cosa sono le vignette? Sono le vignette umoristiche, no, ma sono dell'altra sono cosa. Sono i contrassegni che si acquistano. Quindi non possiamo pagare con la carta di credito o in contanti in euro, ma... Entro in casa d'altri e mi adeguo. Ecco, ma come funzionano? No, mi spieghi, questi sono degli appositi italiani e dove li compro e quando? Lì proprio al casello? Penso di sì, ma non... Sì, sono acquistabili presso tutti i punti di frontiera e anche presso le stazioni di rifornimento di carburante. Però se uno non lo sa, parte senza e lì già ti blocchi, no? Sì, perché sì, tu pensi con la carta di credito di non risolvere esci, tutti non i problemi. Non esci, rimani sequestrato in autostrada. Benissimo. No, ci sarà la possibilità di pagare a un casello d'uscita, forse con una maggiorazione, non ho idea. Allora, intanto Simona da Firenze voleva sapere se la patente italiana è valida negli Stati Uniti, se no che cosa devo fare? È valida, Pellino, raccomandiamolo. Allora, perché qua ci stiamo confrontando un po' con ascoltatori che hanno esperienze nell'est Europa, in Europa prevalentemente. Qualche raccomandazione in più da fare a chi invece si appresta ad andare in un paese magari proprio con abitudini particolari? Quali sono? Cercare di sapere prima le regole della casa, magari visitando una sede consolare, facendosi guidare da un'ambasciata, ci sono delle sedi apposite, acquisire tutte le informazioni necessarie per essere in regola, perché è fondamentale essere in regola. Per chi parte in moto? Non cambia niente. Non cambia nulla? Dobbiamo avere qualche... Può forare due ruote invece che quattro. Ecco, quindi gli va ancora meglio. Sì. Il casco, mi raccomando, per il casco non ci sono regole particolari da dover, se no quello di portarcelo sempre appresso come se fosse la nostra seconda pelle. Senta, quando scade la carta verde di cui abbiamo parlato prima? È la assolutamente associata... È assolutamente associata al contratto. Ha la stessa scadenza perché è un pezzo del contratto. Allora, intanto per le ultime richieste da parte dei nostri ascoltatori, potete ridire la sede in Corso Sempione? 39, Corso sì. Sempione 39, 20145, il CAP, il telefono è 02 34968. C'è chi va in Brasile, qua invece ci raccontano qua, i miei cugini quando vengono in Italia in vacanza dal Brasile guidano con la patente brasiliana normale, rischiano una multa se fermati? Qua sulla polizia municipale non siamo infermati. No. Un altro termine francese che ho trovato sulla varietà della patente brasiliana. Infatti. Il carnet de passage en douane in dogana, il documento internazionale obbligatorio in molti paesi del mondo che permette di importare in regime di franchigia doganale per un tempo limitato veicoli privati e commerciali. Cosa dobbiamo sapere su questa istituzione, su questo documento? Dobbiamo sapere tutto quello che ci dirà un automobile club provinciale, che è quello che rilascia questo documento. È un retaggio di vecchie storie per le quali sembrava che queste vetture portate all'estero venissero poi vendute in loco con violazione delle norme doganali, per cui è una forma di fideiussione al rientro del bene in Italia. Allora, intanto vedo che molti sapevano benissimo il funzionamento della vignetta, la si acquista prima del casello, se si viene fermati senza ci sono gravi sanzioni, non la si può pagare all'uscita. No. Ecco, grazie ai nostri ascoltatori. Con sanzioni. Sì, ottimo. Grazie Raffaele Pellino per essere ritornato ai nostri microfoni, ci mancava, era da tempo che non si faceva sentire, ma adesso invece recupereremo tutto il tempo perduto, lo metto al lavoro seriamente, intanto noi torniamo domani con Nicoletta, a tutti, buona giornata. Grazie.